Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno. Everything must change, cantava Paul Young negli anni 80, e in effetti il cambiamento è rapido, investe ogni cosa, ogni attività, ogni azienda, e tutto deve cambiare. Lo sapevate, ad esempio, che le maggiori aziende industriali si stanno trasformando in software house? Non è un paradosso, un modo di dire, no, diventano proprio delle software house, tanto che General Electric, che è una delle maggiori aziende industriali al mondo e la prima non automobilistica, se guardiamo il fatturato, 150 miliardi di dollari, ha dichiarato di volersi trasformare in una software house e di voler competere con Microsoft e con Oracle. Lo ha detto il suo CEO mondiale Jeff Immelt, che dopo sentiremo in un frame, e ce lo spiegherà qui in Italia amministratore delegato della sede italiana, Sandro De Poli. Buongiorno. Buongiorno. Che ci racconta come mai è nata GE Digital. Ecco, ci dica qualcosa in questi 2-3 minuti che ci restano prima degli avvisi sul traffico della pubblicità. Tutte le apparecchiature che produciamo, caratterizzate da altissima tecnologia, da tanto tempo utilizzano sistemi digitali di controllo. Quello che noi stiamo vedendo è la necessità di portare maggiore intelligenza su queste piattaforme ai nostri clienti per aumentare gli standard di produttività e di prestazione. Avete creato una divisione che si chiama GE Digital, che scorpora 6 miliardi di dollari dei 150 del vostro fatturato e che, come ha dichiarato Jeff Immelt, si pone l'obiettivo di diventare una delle prime 10 software house. Certo, e probabilmente questo era l'unico modo per fare che questo cambiamento succedesse in tempi rapidi, praticamente istantanei, cioè il fatto di togliere dai business operativi queste risorse sotto un ombrello che garantisse un'omogeneità di comportamento nello sviluppo delle tecnologie. E qui devo fare una spiegazione io prima degli avvisi sul traffico. La questione è che la digitalizzazione di tutta la fabbrica, l'internet delle cose, la fabbrica 4.0, significa, come abbiamo spiegato anche la settimana scorsa, che su ogni pezzo, su ogni componente viene messo un chip o un sensore che comunica con gli altri componenti, con la fabbrica, col produttore, col cliente. È una digitalizzazione pazzesca. Tutta la fabbrica va verso il digitale, perché poi dalla gestione di queste masse enormi di dati che si ricavano, questi big data, si ottengono informazioni che cambiano il modello di business. Dunque è necessario un software, il software diventa un elemento chiave per competere. Che cosa ha fatto General Electric? Ha deciso di scorporare il tutto e creare GE Digital, che raduna sia le attività compiute al proprio interno per la digitalizzazione delle proprie fabbriche, e sia le attività che si vogliono portare all'esterno e fornire a clienti esterni. Questa è General Electric Digital. Però per i nostri ascoltatori credo che sia necessario dire che cos'è General Electric in generale. General Electric è la più grande conglomerata industriale al mondo, che fa turbine elettriche e materiali elettrici, che fa i componenti per le centrali, che fa i materiali per la trazione ferroviaria, i motori per aerei, i motori navali, l'imaging biomedico, i reattori nucleari addirittura, i quadri elettrici, e è un'azienda che ha la bellezza di 287.000 dipendenti ed è stata fondata da Thomas Edison, che era l'inventore della lampadina, e poi è diventata una gigantesca conglomerata che in Italia per il mercato italiano fa 2,2 miliardi di euro di fatturato, ma genera 4 miliardi di fatturato con le sue esportazioni. Dico bene, dottor De Poli? Assolutamente. Adesso avvisi sul traffico e pubblicità, restate con noi e vi spiegheremo questa transizione. Fabbrica 2.4. Let's Rieccoci in linea, ancora Paul Young con il cambiamento e ancora parliamo di cambiamento con Sandro De Poli, che è il capo della filiale italiana di General Electric. E General Electric, dicevamo prima, ha detto che vuol diventare una software house. Allora, dottore, che cosa comporta tutto ciò? Comporta una trasformazione epocale del modo in cui lavoreremo, una comunicazione verso i nostri clienti spiegandogli perché lo stiamo facendo e come pensiamo di poterli aiutare meglio nel futuro. Ah, questo è interessante. È uno dei primi progetti che avete fatto in Italia, in questo senso, è stato fatto con A2A. Ecco, ce lo può raccontare un po'? Ma fondamentalmente è un lavoro per rendere gli impianti di A2A più flessibili possibili, per permettere alla 2A di poter andare a fornire servizi di rete, cioè fornire energia elettrica sulla rete, nei tempi più brevi possibile quando la rete abbia la necessità. Questo è un impianto, sono degli impianti di grossa potenza, abbiamo fatto il primo stadio di implementazione e il risultato è molto molto positivo. Quindi è il concetto della manutenzione predittiva applicato alle centrali elettriche. Anche un pezzo di questa manutenzione predittiva, ma non solo. Cioè, il tema di questi impianti è di averli sempre a disposizione, sempre funzionanti o pronti per funzionare e poterli mettere in funzione esattamente quando serve, nei tempi più brevi possibile. E tutto ciò avviene grazie alla digitalizzazione, perché ci sono chip e sensori sparsi ovunque. Questi chip e questi sensori raccolgono informazioni, li mandano in rete, c'è un software che li analizza. E stiamo cambiando il modello di funzionamento di queste apparecchiature. Queste apparecchiature una volta erano fatte per essere avviate una volta e spente mai, idealmente. Cioè, se poteva funzionare un anno, funzionava un anno, se poteva funzionare due anni. Adesso invece stiamo parlando di apparecchiature che possono essere accese e spente più volte nella stessa giornata. Questo è interessante. Poi avete anche una piattaforma che si chiama Predix, certo, che è un software che fa in qualche modo concorrenza ai software gestionali di Microsoft o di SAP, giusto? Ma diciamo, è una piattaforma che abbiamo sviluppato General Electric per applicazioni industriali, diciamo applicazioni industriali digitali, per cui con i requisiti di sicurezza richiesti dall'industria, che sono ovviamente più alti rispetto ai requisiti di sicurezza fatti per i software dedicati al largo consumo, e con la possibilità allo stesso modo di altre piattaforme informatiche di sviluppare applicazioni e di poterle mettere a disposizione di chiunque le voglia utilizzare. Comunque, dicevamo prima che la decisione di Jeff Immelt, che è il CEO di General Electric ed è una persona che ha sempre in tutti questi anni posto l'accento sul cambiamento, per essere maggiormente focalizzati su di ciò è stato di scorporare queste attività e di creare GE Digital, dicendo che vuole essere una delle prime 10 software house al mondo. La prima è HP, che fa 111,45 miliardi. La seconda è Microsoft, che fa 93 miliardi. La terza è IBM, che ormai non fa più i computer, ma fa solo software e manutenzione software, e ha 92 miliardi. Poi si scende di scala dimensionale, la quarta software house al mondo è Oracle, con 38,27 miliardi. La quinta è SAP, che fa 23,3 miliardi. La sesta è Salesforce, che fa, e qui scendiamo ancora nella scala dimensionale, 6,61 miliardi. La settima è Symantec, 6,58 miliardi. Poi c'è VMware, che fa 6,04 miliardi. E poi si arriva alla nona, che è F-Serve, che fa 5,66. E poi la decima società di software è CA Technologies, 4,26 miliardi. Ma allora qui c'è il trucco, dottor De Poli, perché se vuole essere tra le prime 10 e fa 6 miliardi, c'è già in realtà. È vero. È vero. E quindi è facile dire vogliamo essere, no, visto che la decima ne fa 4 miliardi. Ma in effetti noi abbiamo l'ambizione di voler diventare i giocatori più importanti delle applicazioni industriali del digitale e poter andare a fare in modo che questa piattaforma diventi uno standard dell'industria negli anni a venire. Ecco, infatti sull'industriale c'è tantissimo da fare. Forse internet si rivelerà più che una cosa consumer, come siamo abituati a vederla oggi, in cui videogiochiamo con un cinese, o con uno che sta all'altra parte del mondo, più che una cosa consumer sarà una cosa industriale. Per esempio, tanti pensano all'auto interconnessa, alla quale abbiamo dedicato la puntata di domenica scorsa, ma c'è un grosso tema che vede impegnate a General Electric, che sono le navi interconnesse, le navi che hanno chip dappertutto per comunicare con le altre navi, con le capitanerie, con i clienti di cui trasportano i prodotti e quant'altro. Aeroplani, treni, stessa cosa. E tra l'altro nei motori per le navi voi siete, credo, i primi al mondo. Abbiamo una posizione forte, motori d'aereo ancora più forte se vuole, e questo è un dominio dove da 30 anni che abbiamo tecnologie digitali esistenti, mai sfruttate come stiamo cominciando a sfruttare adesso però. Ecco, io vorrei farvi sentire Jeff Immelt, che in un'intervista al sito internet della McKinsey ha detto che vogliono essere non più una società industriale, ma un concorrente di Oracle e Microsoft. Sentiamolo. We as a company didn't, you know, go to bed one night and say, God, we can't be an industrial company anymore. We need to be more like Oracle. We need to be more like Microsoft. What happened was it happened more on an evolutionary basis. Ecco, vi traduco questo primo pezzo. Che cosa dice Immelt? Non possiamo più essere solo una società industriale. Noi dobbiamo essere qualcosa di simile a Oracle e a Microsoft. Che cosa sta succedendo dal punto di vista evolutivo? Che l'industria confluisce nella tecnologia, diventa una sola cosa con la tecnologia. Continuiamo a sentirlo. We serve. You think about a jet engine today, or a locomotive, or a MR scanner. Maybe a new jet engine might have 100 sensors on it. Ecco, che cosa dice ancora Immelt? Girano milioni di dati in continuo. Nello stato, ad esempio, di un motore, il consumo di energia può essere fonte di dati che poi vengono analizzati e sfruttati per ridurre il consumo. Immelt, nel pezzo che avete appena sentito, fa l'esempio di un volo da New York a Chicago e dice che produce un terabyte di dati, e poi questi dati devono essere analizzati, e quindi questo è il motivo per il quale il software diventa centrale. Tutte le fabbriche diventano anche delle software house. Questo sta avvenendo, dice Immelt, nel discorso industriale, e quindi c'è una serie di decisioni che ogni azienda deve prendere per forza. Deve decidere se dare in outsourcing tutte queste cose, se farle all'interno e se cambiare il business model. Loro di General Electric hanno deciso di creare GE Digital. Giusto, no, dottor De Poli? Assolutamente. E il messaggio di Immelt è molto chiaro. Negli ultimi 30 anni abbiamo speso una quantità enorme di ricerca, di denaro in ricerca e sviluppo nel mondo della tecnologia dei materiali. La prossima frontiera per i prossimi 20 anni sarà software. Allora, dottore De Poli, è un discorso di digitalizzazione intensiva dell'industria. Assolutamente. E questo per i vostri clienti che cosa comporta? Cioè, il medio o piccolo imprenditore che ci ascolta in autoradio in questo momento, la domenica, al quale magari abbiamo fatto venire uno stranguglione perché sta mangiando, lui, per rimanere competitivo, che cosa deve fare? Io posso fare degli esempi locali che abbiamo già cominciato a mostrare. Si parla di fabbrica 4.0, di fabbrica digitale. Abbiamo degli esempi molto interessanti di stampa 3D dei metalli fatti nel nostro stabilimento di Cameri in Italia. Questa è una tecnologia che potenzialmente è competitiva e rischia di mettere in discussione alcuni approcci di produzione di componenti meccanici fatti con la fonderia. La fonderia del XXI secolo sarà verosimilmente una fonderia che stampa 3D in modo digitale. Ma il piccolo imprenditore italiano può rivolgersi a General Electric, o voi siete troppo grandi o troppo cari per poterlo aiutare? Può sicuramente rivolgersi. In ogni caso, a mio avviso, il piccolo imprenditore italiano deve essere consapevole di cosa sta arrivando, perché il modello di business dell'industria è destinato a cambiare con una grande velocità, e se non vede la velocità di questo cambiamento rischia di trovarsi spiazzato. Me ne rendo conto. E invece, dal punto di vista dei posti di lavoro, che è un altro degli argomenti che interessano i nostri ascoltatori, il fatto che nasca in Italia General Electric Digital, credo che dovete ancora trovare, no, il capo responsabile, amministratore. Stiamo organizzando la struttura. Ecco, sta nascendo una grande struttura così. Quindi gli esperti di software, i programmatori, gli ingegneri che ci sentono devono mandare curriculum? Allora, fermo restando che queste sono attività che non hanno necessariamente bisogno di essere collocate in un particolare paese. Oggi come oggi la nostra piattaforma è nata negli Stati Uniti, in Silicon Valley. Però stiamo già aprendo un centro, una cosiddetta Digital Foundry, in Europa, in Francia prossimamente. Abbiamo un laboratorio software importante in Inghilterra, abbiamo un altro in Polonia. dovunque si trovino competenze. E ma in Italia, scusi, adesso Italia, mi fa rimanere male alla fine della... Abbiamo questa decisione di fare questo passo nel digitale, è una decisione di ieri. Stiamo facendo piani per capire come in Italia possiamo giocare un ruolo importante in questa partita. Beh, voi avete già un ruolo importante perché fate 4 miliardi, avete... Quanti dipendenti avete in Italia? 12.400. 12.400 dipendenti, che sono, credo, almeno 10.000 nell'industria. Di più, cioè, 11.800 nell'industria. Perché siete molto automatizzati, quindi ragionieri e impiegati ne avete pochi. Non è neanche vero quello. Ma nell'industria abbiamo 11.800 persone che lavorano nei business industriali di GE. Appunto, e quindi tutto ciò poi alimenta software, certo, digitalizzazione, certo, e quant'altro. Certo, certo. Ma quindi niente curriculum, non devono mandare... I curriculum c'è bisogno di guardare sul nostro sito. Abbiamo un sito dove pubblichiamo sempre tutte le posizioni aperte. Da un po' di anni che stiamo fortunatamente ancora espandendo la nostra piattaforma industriale in Italia. Ah, certamente. Questo me ne rendo conto. Bene, il tempo è tiranno. Il dottor De Poli, io lo ringrazio. Grazie mille. E lo avremo ancora ospite perché è un interlocutore essenziale, visto tutto quello che General Electric fa, per capire quali sono i mutamenti di questa industria che è in continua evoluzione. Non a caso il nostro claim è: viaggio nell'industria che cambia. Arrivederci alla prossima puntata.